L'altro pianeta di Laura Bettini. Un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta che registriamo in esterna a Parma, dove questa settimana si è tenuta l'annuale assegnazione del premio internazionale BCFN YES. Lo attribuisce a giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo la Fondazione Barilla per l'alimentazione e il cibo. Ne abbiamo parlato nel corso dei nostri giornali radio in settimana. Il premio quest'anno sarà a merito di Expo, ma è raddoppiato. Ci sono stati infatti due vincitori, un team italiano e l'altro africano, che si sono portati a casa 10.000 euro a testa per realizzare i loro progetti. Il primo team, capitanato da Francesca Recanati, dottoranda del Politecnico di Milano, ha proposto alla giuria un progetto per fare coinvivere agricoltura e conservazione della foresta amazzonica peruviana. Il secondo, rappresentato a Parma da Nadia Ndum Foy e dal collega Okom Archibong, è dedicato alla popolazione femminile di una tribù seminomade camerunense e vuole insegnare alle donne a coltivare l'area in cui abitano, ricavandone il massimo beneficio per le loro famiglie. Ma non è del premio che parliamo in questa puntata, piuttosto della costruzione del manifesto di impegni per un'agricoltura sostenibile e una corretta alimentazione che questi ricercatori hanno messo a punto a Parma e poi presentato mercoledì scorso in Expo. L'idea era quella di costruire un decalogo per professionisti, educatori, giornalisti, ricercatori, agricoltori, via dicendo, che ciascuno di questi ragazzi, ma volendo anche noi non più tanto ragazzi, si impegnasse a vivere in prima persona. Un esperimento interessante anche in vista del prossimo Expo, quello del 2020 a Dubai, che avrà come motto Connecting Minds, Creating the Future, ovvero connettere le intelligenze, creare il futuro. In questa puntata ripercorriamo quindi la costruzione di questo manifesto, avvenuta sotto la guida di esperti internazionali, ma soprattutto con molto molto spazio alla creatività e all'impegno degli 80 giovani arrivati a Parma da ogni dove. Chi erano questi ragazzi? I vincitori delle scorse edizioni del premio BCFN YES e ovviamente i partecipanti all'edizione 2015. Cominciamo però dall'inizio, sentiamo innanzitutto Luca Virginio, vicepresidente della Fondazione BCFN, al quale abbiamo chiesto perché questa iniziativa, che cosa li ha animati. I motivi sono semplici anche se ambiziosi. La Fondazione, come sappiamo, ha scritto il protocollo di Milano che aveva degli obiettivi molto pragmatici, anche se ambiziosi e quantificati, sui grandi paradossi del cibo e dell'alimentazione. Protocollo di Milano che ha ispirato la Carta di Milano, che però non ha degli obiettivi specifici, è una dichiarazione di principi, e da qui la Fondazione Barilla ha pensato che per dare un ulteriore contributo agli appuntamenti politici istituzionali di altissimo livello che accadranno nei prossimi mesi, ha pensato di dar voce ai giovani, che poi sono coloro che dovranno vivere questo pianeta, e quindi è giusto che siano loro dei protagonisti. Quindi anche se avevano scritto anche loro il protocollo di Milano, abbiamo chiesto loro di scrivere questo manifesto che poi sarà presentato appunto ai leader politici che dovranno, si spera, decidere i grandi temi sull'alimentazione, cibo e risorse del pianeta. I giovani della Fondazione Barilla, alcuni sono giovani, un po' meno giovani di quando li avete conosciuti, insomma, perché sono già alcuni anni che c'è il premio, che vengono a Milano, che conoscono adesso anche Parma e così via. Come li avete visti crescere negli anni? Vi piace, immagino, anche seguire la loro carriera, sapere cosa fanno? Sì, questa è una cosa bellissima, perché la Fondazione Barilla negli anni ha capito che certamente l'esperienza e la reputazione dei grandi scienziati è fondamentale, ma non è più sufficiente. Ma ci sono dei giovani ricercatori straordinariamente appassionati e che vengono da tutto il mondo che vogliono dare il loro contributo. Farebbe molto piacere, se possibile, che non soltanto la Fondazione Barilla desse voce a questi ragazzi, ma se possibile anche le altre organizzazioni governative e non governative a livello internazionale coinvolgessero di più i ragazzi, che francamente hanno molto da dire, e poi soprattutto un domani saranno coloro che dovranno vivere, mi auguro in positivo, questo pianeta che ci ospita. Una piccola critica, direi, insomma, implicita al ricorrere sempre a ciò che è già noto, ecco, e non volere sfruttare magari le competenze dei più giovani, di chi è più entusiasta, di chi ha nuove idee? Sì, vuole essere una critica positiva e costruttiva, nel senso che stiamo vedendo che l'attuale sistema, così come è stato organizzato, purtroppo non sta producendo quegli effetti desiderati su temi così urgenti e gravi come cibo, alimentazione e risorse del pianeta. Quindi occorre un cambio di paradigma, un cambio di sistema, e quindi forse non dico che sia la soluzione, ma coinvolgere anche risorse fresche, giovani, e dare voce appunto ai giovani potrebbe essere parte della soluzione del problema. Colgo l'occasione per dire ancora una volta, noi riteniamo come Fondazione Barilla che forse il cambio di marcia dovrebbe essere rappresentato, forse dovrebbe trovare soluzione allorché i leader politici in primis tornino a rimettere al centro delle loro agende questi temi che poi sono la base, il fondamento di ogni società civile e democratica. Fino a quando i leader politici delegheranno a grandi organizzazioni internazionali la soluzione di questi problemi, purtroppo dovremo assistere ancora a gravissimi episodi ai quali stiamo assistendo. Sto parlando quindi di mancanza di accesso al cibo, di sviluppo non più sostenibile, e quindi la nostra chiamata urgente è appunto: rimettete o mettete al centro delle vostre agende non soltanto questioni economiche e finanziarie, ma prima di tutto cibo, alimentazione e risorse del pianeta. Carlo Alberto Pratesi è docente della Università Roma III. Ha una parte molto importante in questa storia, non solo perché è uno dei consulenti scientifici del BCFN, ma perché in pratica lo è stato anche dei ragazzi. Con Sonia Massari di Gusto Lab, Istituto Internazionale degli Studi sul Cibo, li ha guidati nella rifinitura e nella presentazione dei progetti per il concorso, e quanto al manifesto ha studiato il metodo con il quale sarebbe stato meglio elaborarlo in così poco tempo e con così tanti partecipanti. Per poter fare qualcosa che non sia semplicemente un richiamo ai problemi e una condanna magari dei colpevoli, abbiamo pensato di suddividere i giovani in base alle professioni che loro vogliono fare, le professioni che loro faranno, quindi su 7 profili che vanno dal giornalista all'agricoltore, dal politico all'educatore, al ricercatore o al giornalista, e chiedere loro quale impegno si prendono nei confronti del mondo una volta che saranno e avranno la possibilità di svolgere la loro professione, che tipo di impegno prendono per essere parte attiva nel trovare soluzioni ai problemi della sostenibilità in campo agroalimentare. Lo slogan che abbiamo immaginato e abbiamo ripreso è quello del che se non si è parte della soluzione, allora si è parte del problema. 7 tavoli, 7 professioni, 7 impegni per il futuro per questi ragazzi, proprio così. Ogni professione prenderà un impegno o racconterà quello che dovrebbe essere l'impegno da prendere per tutti coloro che andranno a svolgere quel tipo di professione, perché l'idea è che il sistema è complesso, gli stakeholders o comunque le parti in causa sono tante, non si può pensare che siano solo i politici o solo i consumatori o solo le NGO a agire per il cambiamento. Dobbiamo farlo tutti, ognuno di noi ha il suo ruolo, ha la sua responsabilità. Attraverso il manifesto proviamo a fare una sintesi di quali sono le responsabilità di ognuno, in modo da mettere insieme tutte le varie parti in causa e provare a trovare delle risposte. Lanciando un ponte verso il prossimo Expo, che è quello della connettere le menti, no? Quindi qui già ci sono molte menti connesse, altre se ne dovrebbero sperabilmente aggiungere nel momento in cui questo manifesto sarà ufficialmente lanciato, e quindi da qui a 5 anni avere una grande comunità di menti già connesse per Dubai. Esatto, il primo nucleo è quello proprio dei ragazzi che hanno partecipato alla competizione BCFN Yes e quindi sono già in qualche modo coinvolti nel trovare soluzioni. La comunità deve allargarsi ulteriormente. Il messaggio di Dubai del 2020 è proprio quello di non cercare di risolvere i problemi da soli, ma l'unica strada per poter trovare soluzioni a problemi complessi è mettere insieme elementi, e io aggiungerei elementi soprattutto dei giovani, che essendo meno condizionati da modelli del passato e avendo più predisposizione al cambiamento potrebbero trovare soluzioni originali a cui noi non abbiamo ancora pensato. Quindi sono 3 le sessioni sulle quali si lavora per la stesura del manifesto. Nella prima i ragazzi e il mentore internazionale lavorano sulle singole professioni. Nella seconda sessione, a gruppi rimescolati, ci si concentra su 2 obiettivi: l'agricoltura sostenibile e la lotta alla fame. E nella terza sessione si ritorna nei gruppi originari per rimettere insieme le idee. Alla fine delle prime sessioni chiediamo ai mentor come si sono trovati, come sta andando. Stella Thomas è la fondatrice di Global Water Fund. Ci dice che è stata una sessione eccellente. Abbiamo parlato dell'industria alimentare cercando di studiarla da tutti i punti di vista e di metterci in testa che qui non ci sono buoni o cattivi predefiniti. Abbiamo cercato di chiarirci, dice, come sarebbe possibile umanizzare, rendere più umane le grandi industrie. Abbiamo riflettuto su come sia possibile far sì che industrie, attivisti, ONG lavorino insieme per il bene comune. I think the questions are really complex. Saskia Depee del World Food Program, il programma alimentare mondiale, ci dice che i ragazzi si stanno facendo le domande giuste. Certo, sono domande difficili, ammette, e ciascuno di loro ha esperienze e studi diversi, però stanno cercando di mettere nero su bianco come intendono costruire le loro carriere e il loro futuro. I was in a group of young people talking about issues for farmers. Nikiko Masumoto si definisce artista agricola. È americana, è un'agricoltrice e ci racconta che era nel gruppo ovviamente degli agricoltori. Ciascuno ha presentato la situazione nel proprio paese, dice, negli Stati Uniti, ad esempio, uno dei temi che sono venuti fuori è quello dell'alta età media degli agricoltori e il poco interesse che i giovani hanno per l'agricoltura. E poi abbiamo affrontato la questione del poco apprezzamento sociale che in molti paesi hanno gli agricoltori. Ron Finley, il giardiniere guerrigliero di Los Angeles, dice che le cose nel suo gruppo vanno bene, anzi, crescono bene. Things are going great, growing great too. Ci sono molti semi da spargere, spiega, ci sono buone idee. Per esempio abbiamo parlato delle ONG. Ci siamo detti, da dove devono venire i soldi? Perché non se ne può fare a meno. I soldi non sono il male, ci sono persone cattive con i soldi, ma i soldi in sé non sono cattivi. E per cambiare il mondo ci vogliono i soldi. È giusto, pubblico e privato devono lavorare insieme, interviene a questo punto Barbara Buchner, direttrice della Climate Policy Initiative. Il settore privato spesso viene denigrato, a volte se lo merita, ma il nostro obiettivo deve essere far lavorare privato e pubblico insieme per lo stesso obiettivo. Facciamo a questo punto una piccola pausa e ci ritroviamo tra poco. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini in questa puntata che registriamo a Parma. Stiamo parlando del manifesto per i giovani che è stato presentato in settimana dalla Fondazione Barilla per la nutrizione e il cibo, l'acronimo è BCFN, un manifesto di impegni con cui gli 80 partecipanti che hanno appunto preso parte attiva alla stesura del manifesto si impegnano ciascuno nelle professioni future a lavorare contro gli sprechi alimentari, la malnutrizione, l'obesità. Noi abbiamo seguito la costruzione di questo manifesto nei due giorni di lavoro a Parma, prima della presentazione finale e ufficiale all'Expo di Milano. Abbiamo detto nella prima parte che ci sono state varie sessioni di lavoro con esperti provenienti anche dall'estero. Poco prima dell'inizio della terza sessione del primo giorno di lavoro abbiamo chiesto come stavano andando le cose a Marta Antonelli, che avevamo già intervistato in questo programma in altre occasioni, perché è l'autrice del libro L'acqua che mangiamo con Francesca Greco. Il terzo sarà tosto perché dovremo cercare di rendere concreto tutto quello che abbiamo fatto in questi primi due. Allora, nel primo ci siamo conosciuti, nel secondo abbiamo lavorato in maniera creativa perché tu parti da un problema, nel mio caso per esempio quello dell'agricoltura sostenibile, e abbiamo cercato di pensare in termini di priorità, innovazione, quindi cercare di pensare un po', come si dice, out of the box, no? E portare quindi veramente un pensiero giovane rispetto a questo problema, quindi delle idee innovative in qualche modo. E adesso la sfida nel terzo workshop sarà quello di mettere tutto insieme, di combinare le cose. I gruppi erano diversi questa volta, quindi sì. Ma poi ritornano quelli di prima. Nel terzo workshop saremo disposti come nel primo, quindi mi troverò a discutere con diciamo le persone che fanno parte della mia categoria, che nel mio caso è Food Industry Manager, e dovremo cercare appunto di concretizzare tutto quello che abbiamo imparato in questa giornata in dei commitment, in delle azioni precise che noi come food managers possiamo portare avanti. E siamo al secondo giorno di lavoro a questo punto. Ieri molti hanno fatto notte per mettere in ordine le idee, oggi ogni categoria professionale deve presentarsi alla sessione mattutina con tre soli obiettivi, tre sole idee che reputano centrali e che secondo loro sono quelle degne di entrare nel manifesto finale. Carlo Alberto Pratesi ci spiega questo meccanismo. Allora, ogni gruppo di lavoro ha individuato 3 proposte di impegni o attività che quel profilo specifico potrebbe mettere in campo il giorno in cui fosse operativo, e tra pochi minuti li ulteriormente selezioneremo in modo da averne uno per ogni profilo attraverso una sorta di giuria popolare, perché tutti i partecipanti potrebbero votare con il sistema dei like sul post Facebook quella proposta che gli sembra più realistica o più utile, e quindi entro la giornata di oggi avremo una proposta per ogni singolo profilo in modo da poterla poi inserire nel manifesto. Le abbiamo lette rapidamente insieme, come ti sono sembrate? Un giudizio così caldo, ecco. Sì. La mia sensazione è che sulle 3 proposte ce n'è sempre almeno una interessante. Bisognerà fare attenzione che nel momento in cui la tradurremo in una proposta per il manifesto venga declinata in termini di impegno e non semplicemente in termini di richiesta. Quindi il mio compito adesso nell'incontro sarà quello di aiutare i ragazzi a prendersi carico di una propria responsabilità il giorno in cui saranno nel loro mestiere. Ecco, quello che avviene dopo la presentazione delle idee, di queste idee fondamentali, non è più pubblico. Ci sarà il conteggio degli obiettivi preferiti degli 80 ricercatori, della giuria, dei mentori, dell'advisory board del BCFN. I voti arrivano via Facebook in questa occasione, e l'elaborazione del documento finale arriverà in base appunto a quelli che sono stati i più votati. Anche noi dobbiamo aspettare la presentazione ufficiale che avverrà all'Expo di Milano per sapere quali saranno i preferiti e quali saranno realmente i contenuti del manifesto. Il 23 di settembre di questo anno 2015 è stata probabilmente la giornata più fredda e piovosa degli ultimi 4 mesi a Milano. Gli 80 ricercatori, giovani ricercatori, sono arrivati all'Expo e hanno comunque ovviamente presentato al ministro dell'Agricoltura Martina le loro proposte concrete per 7 ruoli chiave nel sistema alimentare. I 7 ruoli chiave, le 7 professioni di cui dicevamo prima, sono quella dei policy maker, gli agricoltori, gli attivisti, gli educatori, coloro che lavoreranno nell'industria alimentare, i giornalisti e i ricercatori. Le 7 categorie in prima linea quindi per combattere fame, obesità, spreco di cibo e sfruttamento della terra. Quali sono le proposte del manifesto dei giovani? Sentiamo come le hanno enunciate al ministro Martina. For you, and indeed anyone who calls planet Earth home, for you policymaker. Per i policy maker, valutare l'impatto ambientale, sociale e culturale delle proposte e delle scelte politiche senza limitarsi all'analisi economica. Quindi, per gli agricoltori, favorire il ritorno dei giovani all'agricoltura, lavorare con i governi per dare a ogni persona un migliore accesso alla terra in contesti rurali e urbani. E ancora per gli educatori, leggiamo solo alcuni passaggi, per gli educatori impegnarsi a insegnare a tutti i bambini e i ragazzi la relazione che lega il cibo, le persone, la salute e il pianeta, rendendo obbligatoria nei programmi scolastici di tutto il mondo l'educazione alimentare e all'agricoltura. Per i manager della grande industria, guidare le aziende creando filiere sostenibili, ad esempio. When we become journalists, we will bring recognition to the importance of fact-based media coverage of hunger. Per i giornalisti, valorizzare l'informazione sui temi della fame, del cibo, dell'obesità, e anche creando un Foodlitzer, un premio internazionale, no? Il nome viene creato sul premio Pulitzer, un Foodlitzer per il giornalismo indipendente sulla sostenibilità agroalimentare. Per gli attivisti, chiedere alle aziende agricole e alimentari di aprire i loro consigli di amministrazione ai nostri rappresentanti. Per i ricercatori, fornire dati aperti e imparziali per connettere tra loro discipline diverse. Insomma, queste sono alcune delle proposte che ovviamente potete trovare più approfonditamente nel dettaglio sul sito del BCFN, quindi della Fondazione Barilla per l'alimentazione e il cibo. Francesca Recanati è una dei giovani che hanno partecipato alla stesura di questo manifesto, ma è anche una delle vincitrici del BCFN Yes di quest'anno, e noi le abbiamo chiesto com'è stato appunto partecipare alla stesura di questo manifesto. Il processo di costruzione del manifesto è stato formato principalmente da due parti. Una di preparazione, quindi nei mesi scorsi ci siamo preparati sugli argomenti che avremmo trattato, anche se già fanno parte della nostra vita, mentre il secondo momento è stato negli scorsi giorni, principalmente lunedì e martedì, in cui abbiamo creato questi tavoli di discussione e ciascun tavolo rappresentava ciascuno dei ruoli che sono stati inclusi nel manifesto. Io facevo parte del tavolo delle NGO e degli activist. Il processo di costruzione si è basato negli scorsi giorni si è basato sulle discussioni e sugli scambi di idee all'interno di ciascun tavolo, ma anche tra i diversi tavoli. Secondo me è stato molto efficace. Anche il fatto che ci fosse molto tempo ci ha spinto a riuscire ad arrivare subito all'obiettivo finale, a produrre delle idee concrete, e diciamo che il documento che ne è scaturito ha raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, quindi è un punto di partenza per comunque discussioni future che stiamo già portando avanti. E a quale categoria sento di appartenere? Beh, sicuramente io sono avvantaggiata perché sono già ricercatrice, quindi direi ricercatrice, e già col mio dottorato al Politecnico comunque diciamo faccio ricerca riguardanti i temi della sostenibilità della filiera agroalimentare. Gli impegni che abbiamo preso nello Youth Manifesto li metterò in pratica sicuramente col mio lavoro, anche perché ho la possibilità di partecipare a dei progetti di educazione ambientale sia a scuola che con Ingegneri Senza Frontiere Milano, e quindi cercherò di essere anche educatrice oltre che ricercatrice. E infine direi come lo diffonderò tra i colleghi. Beh, sicuramente ne ho parlato e ne continuerò a parlare, e sì, col Politecnico comunque ci siamo già accordati per fare un'intervista o una dichiarazione da mettere sul sito. Se sposa bagnata e sposa fortunata, loro, questi giovani, con una giornata come quella del 23 di settembre, hanno certamente le stelle dalla loro parte. Ci fermiamo qui per questa puntata dell'Altro Pianeta, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, grazie per l'ascolto.